stavo per non farmi mangiare da un altro ricordo. Bravo, ti saresti sentito orgoglioso di me. Stavo per ridare un aspetto decente alla stanza. Cado sulla prima sembianza di felicità. Di che colore sono gli occhi di Dio? Quando è che il bene suo coincide col mio? Come si torna indietro se non si torna indietro? Solo l'altra faccia della luna lo sa. Quanto vale quello che ci manca? Quanti baci stanno in un minuto? Quando impareremo a domandare aiuto? O a riceverlo se mai? Stavo per sentirmi un campione di rabbia e dolore. Di me stavo per non chiedere altro che neve. Stavo, poi le chiedo di mettere bianco su me. Di che colore sono gli occhi di Dio? Quando è che il bene suo coincide con mio? Come si torna a casa se non è più una casa? Solo l'altra faccia della luna lo sa. Quanto vale quello che ci manca? Quanti baci stanno in un minuto? Quando impareremo a domandare aiuto? O a riceverlo se mai? Quanto vale un attimo di sole? Stavo, ma dal cielo è caduto qualcosa di più. Stavo per non credere a niente, nemmeno al perdono. Stavo.